Capitolo 31. Anna a Filippa. Anna Shirley a Filippa Gordon Greeting. Mia diletta, è da tempo che non ti scrivo ed eccomi qui, ancora una volta maestrina di campagna a Valley Road, in pensione a Wayside, la casa della signorina Janet Sweet. Janet è un'anima bella e di aspetto grazioso, alta ma non altissima, grassottella ma ancora con un certo suggestivo controllo della linea, proprio di un'anima parsimoniosa che non è troppo generosa, nemmeno in materia di peso. Ha una crocchia soffice e piena di capelli castani, appena spruzzati di grigio e grandi occhi gentili e azzurri, come i non ti scordar di me. Inoltre, lei è una di quelle deliziose cuoche all'antica che non si curano affatto di rovinarti la digestione rimpinzandoti di cibi succulenti. A me piace e io piaccio a lei. Soprattutto pare perché lei aveva una sorella di nome Anna, che è morta giovane. Sono davvero felice di conoscerla. Mi ha accolta bruscamente quando sono arrivata da lei, ma non è per nulla come mi aspettavo che fosse. Ero sicura che fosse bruna. Mia sorella lo era. Invece lei ha i capelli rossi. Per qualche minuto ho pensato che non avrei amato Janet quanto mi sarei aspettata al primo sguardo. Poi mi sono detta che dovevo essere più giudiziosa e non abbassare le saracinesche solo perché uno aveva definito rossi i miei capelli. Probabilmente il termine tizianesco era ignoto alla signorina Janet e non faceva quindi parte del suo vocabolario. Wayside è un angolo delizioso. La casa è piccola e bianca, situata su uno splendido declivio sul bordo della strada. Tra la strada e la casa ci sono un frutteto e un giardino mescolati insieme. Il sentiero che porta all'ingresso principale della casa è bordato di conchiglie di palude. La vite si arrampica sul porticato e il muschio cresce sul tetto. La mia stanza è un piccolo angolo oltre il salotto, grande quanto basta per contenere il letto e me. A capo del mio letto c'è un quadro di Roy Burns, accanto alla tomba di Maria di Scozia, ombreggiata da un enorme salice piangente. La faccia di Robby è così lugubre che non c'è da stupirsi che io faccia brutti sogni. Pensa, la prima notte che ho dormito qui ho sognato che non potevo ridere. Il salotto è grazioso e ordinato. C'è una finestra così oscurata da un immenso salice piangente che tutta la stanza è immersa in una luce da grotta, color verde smeraldo. Sulle poltrone ci sono fodere deliziose e allegri tappeti sul pavimento, e libri e cartoline disposti graziosamente su un tavolino e vasi di fiori secchi sulla mensola del camino. Tra i vasi c'è un'allegra collezione di vasi funerari, 5 in tutto, appartenenti rispettivamente al padre di Janet, alla madre, a un fratello, alla sorella Anne e a un servitore che è morto qui. Se uno di questi giorni diventerò pazza, sappiano tutti, da queste mie parole, che sono stati codesti oggetti a causare la mia follia. Ma... sì, tutto è delizioso e l'ho detto. Janet mi ama per questo, allo stesso modo in cui lei ha odiato Esther perché Esther ha detto che tutta questa ombra non è igienica e ha avanzato delle critiche sui letti di piume. No, io sono felice nei letti di piume e tanto più il letto è poco igienico imbottito di piume, tanto più io mi sento in paradiso. Janet dice che è una vera gioia vedermi mangiare. Lei aveva una gran paura che fossi come la signorina Hathorne, che mangiava solo frutta e beveva solo acqua calda a colazione, tentando per di più di convincerla a non cucinare cibi fritti. Esther è davvero una cara ragazza, ma ha un'eccessiva tendenza agli entusiasmi. Il fatto è che non ha immaginazione, perciò tende a farne indigestione. Janet mi ha detto che posso usare il salotto quando voglio per ricevere le visite dei miei giovani ammiratori. Ma non penso che ci sia molto da ricevere. Non ho ancora visto un giovanotto in tutta Valley Road, tranne il servitore della porta accanto. Un ragazzo molto alto e scialbo dai capelli di stoppa. È venuto un pomeriggio ed è rimasto seduto un'ora sulla siepe del giardino, vicino al portico d'ingresso dove Janet e io facevamo qualche lavoretto. E le uniche cose che ha detto di sua spontanea volontà sono state: prendete dei mentini, signorina. Ottima cura i mentini per il catarro. Oppure belli insieme di arrampicanti qui, bello davvero. Ma c'è una storia d'amore vera. Sembra che il mio destino sia quello di trovarmi intrappolata più o meno attivamente in antiche storie d'amore. I signori Irving dicono sempre che sono stata io a farli sposare e la signora Clark di Carmody continua a essermi terribilmente grata per un consiglio che chiunque altro avrebbe probabilmente potuto darle. Sono comunque convinta che Ludovic Speed non sarebbe mai andato oltre un discreto corteggiamento se io non avessi aiutato lui e Teodora Dix a venirne a capo. In questa faccenda io sono soltanto una spettatrice passiva. Una volta ho cercato di accelerare gli eventi e ho fatto un gran pasticcio, sicché questa volta non ci metterò il naso. Ti dirò tutto quando ci incontreremo, Anna. Capitolo 32. Un tè con la signora Douglas. Il primo giovedì sera della permanenza di Anna Valley Road, Janet le chiese di accompagnarla a un raduno di preghiera. Per partecipare a quel raduno, Janet sbocciò come un fiore, indossò un abito di mussolina celeste, cosparso di viole del pensiero e ornato di più gale di quante si potesse supporre per l'economa Janet avesse mai deciso di acquistare. E un cappello bianco di paglia di Firenze arricchito di rose rosa e di tre piume di struzzo. Anna era fuori di sé dallo stupore. Più tardi comprese il motivo per cui Janet si era così azzimata, il motivo vecchio come l'Eden. Il raduno di preghiera di Valley Road era essenzialmente femminile. Erano presenti 32 donne, due ragazzini e un solo uomo seduto accanto al pastore. Non era né bello, né giovane, né elegante, aveva un paio di gambe notevolmente lunghe, tanto che doveva tenerle attorcigliate sotto la sedia per farle stare a posto, e le spalle curve. Aveva grosse mani, i suoi capelli reclamavano un parrucchiere, e i baffi erano incolti, ma Anna pensò che le piaceva la sua faccia. Era gentile, onesta e tenera, e aveva un non so che di indefinibile. Dopo aver riflettuto, Anna concluse che quell'uomo doveva aver sofferto, superando con forza le avversità, e tutto ciò gli era rimasto impresso nel volto. C'era in esso una luce paziente, di paziente sopportazione, sottilmente venata di umorismo. Qualora fosse stato condannato al rogo, quell'uomo avrebbe cercato di apparire composto e sorridente, fino al momento in cui le fiamme lo avessero divorato. Quando il raduno ebbe termine, l'uomo si accostò a Janet e disse: «Posso accompagnarti a casa, Janet?» Janet accettò il suo braccio con i rossori e la timidezza di una sedicenne, scortata a casa da un uomo per la prima volta, avrebbe detto più tardi Anna alle ragazze di Patty's Place. «Signorina Shirley, mi permetta di presentarle il signor Douglas», esordì Janet con aria di grandama. Il signor Douglas chinò il capo e disse: «L'ho notata durante la cerimonia, signorina, e ho pensato che era una ragazzina davvero molto graziosa». Un'affermazione del genere da parte del 99% delle persone avrebbe infastidito Anna, ma il modo in cui il signor Douglas pronunciò quelle parole banali le fece apparire ai suoi occhi un complimento davvero autentico e gradevole. Lei gli sorrise con aria di apprezzamento e li seguì, rimanendo discretamente indietro nella via illuminata dalla luna. Così Janet aveva uno spasimante. Anna ne era felicissima. Janet sarebbe stata una moglie ideale, allegra, economa e sì, tollerante. Era un'autentica regina della cucina. Sarebbe stato un imperdonabile peccato se fosse diventata una vecchia zitella. «John Douglas mi ha chiesto di portarla con me a far visita a sua madre», disse Janet il giorno appresso. «Lei è costretta a letto da molto tempo e non esce mai di casa, ma ha un gran bisogno di compagnia e chiede sempre di conoscere i miei pensionanti. Può accompagnarmi là stasera?» Anna acconsentì, ma più tardi, durante la giornata, il signor Douglas chiamò a nome di sua madre per invitarla invece a prendere il tè sabato pomeriggio. «Oh, perché non hai indossato l'abito con le viole del pensiero?» si rammaricò Anna quando uscirono di casa. Era una giornata calda e la povera Janet, tra l'eccitazione e il pesante abito di cashmere nero, sembrava arrostita viva. «Temo che la signora Douglas lo troverebbe frivolo e immettibile. Però John ama quell'abito», soggiunse meditabonda. La vecchia casa dei Douglas era a mezzo miglio da Wayside, in cima a una collina ventosa. La casa in se stessa era grande e confortevole, abbastanza vecchia da guadagnarne in dignità e inghirlandata da frutteti e boschetti di aceri. Sul retro c'erano stalle e granai vasti e ordinati e tutto spirava prosperità. Quindi, riflette Anna, quella luce di paziente sopportazione sul volto del signor Douglas non era generata da debiti né da sollecitazioni di pagamenti. John Douglas le accolse sulla soglia e le accompagnò in salotto dove la madre sedeva su una poltrona come su un trono. Anna si era aspettata che la signora Douglas fosse alta e sottile, perché il signor Douglas lo era. Invece era uno scampolo di donna, con guance di un soffice rosa, miti occhi celesti e una bocca da bambina. Vestita di un bell'abito alla moda in seta nera, con un piumoso scialle chiaro sulle spalle e i capelli bianchi sormontati da un cappellino in merletto leggero come un soffio. Avrebbe potuto posare come modella per una bambola, con i tratti di vecchietta. «Come stai, Janet cara?» si informò con voce dolce. «Sono così felice di rivederti!» protese il vecchio faccino per ricevere un bacio. «E questa è la nostra nuova maestra. Sono felice di incontrarla. Mio figlio ha cantato le sue lodi con tanta enfasi che mi sono ingelosita per metà, e sono certa che Janet lo sarebbe diventata per intero.» Povera Janet arrossì. Anna mormorò qualcosa di educato e convenzionale, poi tutti si accomodarono e si misero a chiacchierare. Non fu facile nemmeno per Anna, perché nessuno sembrava trovarsi a proprio agio, eccezion fatta per la vecchia signora Douglas, la quale non aveva certo difficoltà di parola. Aveva fatto accomodare Janet accanto a sé e di tanto in tanto le stringeva la mano. Janet stava immobile e sorrideva, terribilmente impacciata nel suo orrendo abito, e John Douglas stava immobile e non sorrideva. All'ora del tè, l'amabile signora Douglas chiese con grazia a Janet di occuparsi lei del servizio. Janet avvampò di nuovo, diventando ancora più paonazza, ma obbedì. Anna fornì a Stella una descrizione scritta di quella cerimonia. Scrisse: «Ci furono serviti lingua fredda, pollo e marmellata di fragole, crostata al limone e pasticcini alla frutta, e dolce di cioccolato e biscotti all'uvetta e torta inglese e torta di frutta e una quantità di altre leccornie, inclusa una crostata alle more e una al caramello. Almeno credo che così si chiamasse.» Dopo aver mangiato il doppio di quanto avrei dovuto, la signora Douglas sospirò e disse che temeva di non avermi offerto niente che stuzzicasse il mio appetito. «Ho paura che la cucina di Janet le abbia tolto il gusto per qualsiasi altra», disse la signora Douglas con voce flautata. «Certo che nessuno in tutta Valley Road può rivaleggiare con lei. Non desidera un altro pezzo di crostata, signorina Shirley? Non ha mangiato nulla.» «Stella, avevo mangiato una porzione di lingua e una di pollo, 3 biscotti, una generosa quantità di marmellata, un pezzo di crostata, una tartina e una fettona di torta al cioccolato.» Dopo il tè, la signora Douglas sorrise dolcemente e suggerì a John di condurre la cara Janet in giardino a raccogliere delle rose. «La signorina Shirley mi terrà intanto un po' di compagnia mentre siete fuori, d'accordo?» aggiunse con voce lamentosa e si allungò sulla sua poltrona con un sospiro. «Sono una donna anziana, assai fragile, signorina Shirley. Da circa 20 anni soffro pene indicibili. Da 20 lunghi e faticosi anni mi spengo come una candela.» «Che pena!» esclamò Anna, cercando di essere partecipe e riuscendo soltanto a sentirsi sciocca. «Per una sfilza di notti ho temuto di non arrivare a vedere l'alba», proseguì solennemente la signora. «Nessuno sa che cosa ho attraversato, nessuno tranne me. Non durerò più a lungo, comunque. Il mio triste pellegrinaggio su questa terra sta per finire, signorina Shirley. È di grande conforto per il mio cuore di madre sapere che John avrà una così brava moglie a occuparsi di lui quando io non ci sarò più. Mi è di grande conforto, creda, signorina Shirley. Janet è una donnina deliziosa», approvò calorosamente Anna. «Davvero deliziosa e ha un buon carattere», concordò la signora Douglas. «È una perfetta padrona di casa, cosa che io non sono mai stata.» «La mia salute non me lo ha mai permesso, signorina Shirley. Sono riconoscente a John per aver operato una scelta così oculata. Spero e credo che sarà felice. È il mio unico figlio, signorina Shirley, e la sua felicità mi sta davvero a cuore.» «Oh, certo», disse Anna sentendosi ebete. Per la prima volta in vita sua si sentiva così. Non poteva capirne il motivo. Non trovava assolutamente nulla da dire a quella soave, sorridente, angelica donna che le dava pacche così gentili sulla mano. Vieni a trovarmi domani, cara Janet, disse amorevolmente la signora quando si congedarono. Non vieni mai abbastanza spesso? Ma suppongo che John ti porterà a stare qui tutto il tempo uno di questi giorni. Anna, lanciando un'occhiata casuale a John Douglas, mentre sua madre parlava, colse in lui uno sgomento inequivocabile. Aveva l'aspetto di un uomo che i suoi aguzzini stanno per sottoporre alla tortura suprema, quella che va al di là di ogni umana resistenza. Anna pensò che si sentisse male e che intendesse portar via da quel luogo la vermiglia Janet. Non è un tesoro di donna, la vecchia signora Douglas? Domandò Janet quando furono in strada. Rispose Anna con aria assente. Si domandava il perché del disagio di John Douglas. Soffre da morire, si dolse Janet con viva partecipazione. Ha delle crisi terribili. John è sempre preoccupato. Ha il terrore di stare fuori di casa per la paura che a sua madre venga una crisi e non ci sia nessuno accanto a lei tranne la sguattera.